America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, l'inchiostro non è ancora asciutto sui documenti firmati in materia nucleare dal presidente Barack Obama, che vediamo che la sua offensiva di immagine comincia a trovare una sponda anche sul fianco più fragile, quello della ripresa e della gestione dell'economia. Vediamo perché. Federal Reserve Chairman Ben Bernanke said in his testimony today before the Joint Economic Committee of Congress that the economy will continue to recover at a moderate pace in coming quarters. Come avete sentito da questo commento televisivo, uno dei tanti commenti che abbiamo ascoltato ieri, il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke ha parlato davanti alla commissione parlamentare congiunta sull'economia e ha dato un quadro relativamente positivo dell'andamento della ripresa. Secondo Ben Bernanke le condizioni ci sono perché la ripresa continui nei prossimi trimestri grazie alla politica monetaria espansiva e grazie a una politica fiscale da parte del governo di supporto alla crescita economica. Del resto ci sono stati dei dati ieri mattina che confermano questa situazione. Le vendite al consumo, l'indicatore più attendibile dell'umore degli americani, sono aumentate in marzo dell'1,6%. Gli esperti si aspettavano l'1,3%. Non solo, questo aumento è il più forte in 4 mesi. C'è stato anche un recupero di aspetti virtuosi sconosciuti da tempo nel contesto economico e l'indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo è aumentato solo dello 0,1%. Cosa significa? Beh, significa che la Federal Reserve ha le mani libere per poter continuare con la sua politica monetaria espansiva e dunque i mercati sono un filo più tranquilli. On net, the financial condition of banking firms has strengthened markedly during recent quarters. Qui abbiamo sentito la voce di Ben Bernanke, direttamente la sua opinione sul settore finanziario, un settore che si è rafforzato, dice, soprattutto nelle sue istituzioni più importanti. In effetti, altra buona notizia per l'economia americana. Ieri JP Morgan Chase, una delle più importanti banche del paese, ha comunicato un profitto per il primo trimestre di 3,3 miliardi di dollari con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non solo, Jamie Dimon, uno dei titani di Wall Street, presidente e amministratore delegato del gruppo, ha rivelato che ci sono almeno 3 aspetti importanti che consentono di avere un certo ottimismo sul futuro dell'economia. Qualche giorno fa vi avevo anticipato che in effetti voci insistenti a Wall Street in ambienti altolocati anticipavano elementi nuovi. Non vi avevo detto che provenivano da Jamie Dimon. Oggi è andato public, come si dice. Cosa ha detto Dimon? Primo, il tasso di delinquenza, il tasso di insolvibilità delle carte di credito è diminuito. Lo stesso vale per i mutui immobiliari. Molta più gente paga i suoi debiti e riesce a pagare le quote mensili. Terzo, i consumi di beni di lusso stanno andando alquanto bene. Segnali, dice Dimon, che consentono di avere un certo ottimismo appunto sulla tenuta della ripresa economica e soprattutto sul futuro dell'economia. La sua conclusione è chiara, dice testuali parole: le paure che avevano molti per un possibile double dip recessivo stanno rapidamente svanendo. A significant amount of time will be required to restore the 8.5 million jobs that were lost during the past 2 years. Ecco qui Bernanke suona la campana della prudenza e del realismo. È vero, le cose vanno bene. Per esempio, l'indice Dow Jones continua a crescere. Ieri ha fatto oltre l'1%. Siamo ormai solidamente al di là di quota 11.000. con la quota psicologica che si doveva superare in supplesse, come poi in effetti è successo. Ma i problemi sono altri, dice Bernanke. L'economia, pur crescendo, difficilmente riuscirà a produrre centinaia di migliaia di posti di lavoro al mese e dunque sarà difficile recuperare in tempi rapidi quegli 8,5 milioni di posti di lavoro che si sono persi nella recessione del 2007-2009. Altro elemento elemento di preoccupazione, il forte disavanzo pubblico, con un pericolo che il debito federale americano possa arrivare addirittura al 100% del prodotto interno lordo. Ebbene, questi problemi li conosciamo, sapremo solo più avanti se si riuscirà in qualche modo a contenerli, ma un'altra notizia positiva di ieri, sempre dalla Fed, è venuta col Beige Book dei 12 distretti americani analizzati in questa analisi prodotta dalle banche regionali. 11 stanno crescendo, stanno andando bene. Ad Atlanta c'è stata una ripresa delle vendite del settore immobiliare che era in gravi difficoltà. Nelle zone turistiche sciistiche si sono avute le stagioni migliori della storia addirittura. Dunque il turismo sta cominciando a riprendersi. L'unica regione che non va bene è quella che fa capo alla banca di St. Louis nell'area dell'Arkansas e una parte del Kansas meridionale. Ebbene, in quella regione continuano ad esserci chiusure di aziende e una recessione dell'economia, ma il resto dell'America tira. Dunque stiamo imboccando in qualche modo una nuova strada più solida e più positiva per la crescita dell'economia. Bernanke, in chiusura del suo intervento, affronta la questione cambio con la Cina e ripete, copia carbone, quello che ha detto l'altro giorno il presidente Barack Obama, che ora sappiamo dove si è ispirato per le sue dichiarazioni aggressive nei confronti di Pechino. Il governatore della Federal Reserve dice che dovrebbe essere molto positivo per i cinesi consentire una maggiore flessibilità del loro tasso di cambio. Questo gli consentirebbe di affrontare rischi inflazioni e bolle speculative all'interno della loro economia. Non solo consentirà di avere una crescita più equilibrata e di doversi preoccupare meno delle esportazioni e più della domanda interna. La stessa linea identica di Barack Obama, una linea che non è condivisa da Pechino, non è condivisa soprattutto dalla leadership politica e dunque da Hu Jintao. Sappiamo che ci sono altri economisti cinesi che invece sono più sulla linea americana, inclusi alcuni banchieri centrali. Anche su questo fronte il braccio di ferro continua, ma sappiamo che almeno dal punto di vista americano, il fronte è unito. iPad demand, the company coming out and saying much higher than expected. L'annunciatrice ci dà una notizia, ci dice che la Apple Computer ha dovuto ritardare la vendita dell'iPad in Europa. Perché? Beh, perché la domanda in America è impazzita. Si sono venduti molti più pezzi di quelli che si immaginava, addirittura oltre 500.000 iPad nel giro delle prime settimane. Dunque non ci sono più scorte di magazzino, la produzione è indietro. Significa questo, dovendo trovare un contrappunto nell'economia reale, come abbiamo fatto con i profitti JP Morgan, di quel che ci dicono i dati macroeconomici, significa dunque questo che la domanda sta davvero tirando piuttosto bene. Purtroppo per voi, cari ascoltatori, che magari già vi preparavate per entrare in possesso di questo nuovo super gadget americano, beh, dovrete aspettare. Padrino colpisce ancora. L'altra sera il nipote di John Gotti, grande boss della mafia morto in prigione, Carmine Gotti, festeggiava il suo compleanno in un locale a Chelsea, l'Ultra Lounge M2, 24 anni, quando vede sulla pista Dwayne Wade, giocatore del Miami Heat, una delle più grandi stelle del basket americano. E visto che tutto gli è dovuto, ha deciso di conoscerlo. Manda un messaggio sapendo che non potrà essere questa sua offerta rifiutata. Beh, e invece Wade, quando ha saputo che Gotti era il nipote del grande mafioso, ha deciso che non voleva assolutamente conoscerlo. Questo ha fatto imbestialire il ragazzino, che devo dire sembra piuttosto viziato e antipaticuccio di suo, quindi forse il giovane Wade non aveva tutti i torti. E che succede? Beh, esplode una grande rissa fra le guardie del corpo dei due rispettivi contendenti. studenti e dunque una serata che poteva essere tranquilla alla fine per conflitti di personalità, come succede un po' dappertutto, non solo a New York, è finita male. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, oggi in America, devo dirvelo, è un giorno nero, un giorno triste. Perché? Perché si pagano le tasse. 15 aprile, scadenza ultima per presentarsi all'appuntamento con l'IRS, il fisco americano. E dunque, che succede? Che per qualcuno le cose non sono andate del tutto risce, in particolare per Toni Braxton, la cantante R&B, deve $396,300 di arretrati fiscali sui redditi del 2007 e del 2008. Il debito riguarda anche l'ex marito dell'artista, Kirsten Lewis, del gruppo Mint Condition, il quale rifiuta di pagare, dice che i soldi devono essere sborsati soprattutto dalla ex moglie. Grande lite, la giornata di oggi non finirà bene per loro, anche perché l'IRS è durissimo e sappiamo che non cederà. Dunque, dedichiamo a Toni Braxton la canzone del giorno con un suo hit, Unbreak My Heart. Unbreak my heart. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!